Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente avremo una lunga pagina sul Consiglio Europeo, non ci sono ancora enormi novità, però qualcosa si sta muovendo. Vi è stato anche uno scambio di battute tra il Premier Conte e il Premier olandese Rutte. Si discute chiaramente sulle condizionalità, sul prestito, il Recovery Fund, soprattutto per la parte che non sarà prestito, ma per la parte che sarà sovvenzioni, quindi diciamo a fondo perduto per capirci. La proposta originale della Commissione della von der Leyen è di 750 miliardi, 500 come sovvenzioni, 250 come prestiti. Io dico una cosa, poi ne riparleremo. Guardate che anche sul fatto dei finanziamenti a fondo perduto, quindi sovvenzioni non prestiti, e a mio avviso invece è importante che vi siano delle condizionalità, ma non solo perché non mi fido fino in fondo della capacità che ha l'Italia di utilizzare questi soldi. Pensate solo come non riusciamo a utilizzare alcune regioni, soprattutto del sud, i fondi europei già messi a disposizione, perché mancano i progetti o vengono bocciati, o addirittura quei soldi poi vengono dati a altre aree svantaggiate. Mi riferisco per esempio a Portogallo e Spagna. Ma perché in generale, visto che oggi è venerdì e di solito prima del Covid avevamo una poco invidiabile classifica da anni, sappiamo che poi insomma, il rischio che i soldi vengano utilizzati male o per progetti diciamo fallaci se non inconsistenti c'è. Ecco perché mi sembra importante che vi siano delle condizionalità, anche per evitare che poi qualcuno dica useremo questi soldi per ridurre le tasse. No, i soldi li devi utilizzare per la ricostruzione diciamo post-Covid. È chiaro che se tu usi quei soldi per esempio investimenti infrastrutturali, puoi avere quello che non usi, lo puoi usare per un abbassamento di tasse. Però secondo me invece è importante, non è una troica, che la Commissione Europea poi vada a vigilare, o meglio riceva i progetti italiani, sulla base di quello dica sì, il progetto ci convince oppure no. È un elemento anche di maggiore sicurezza, oltre che di serietà, non solo per i contribuenti europei, ma anche per i contribuenti italiani, visto che noi siamo finanziatori netti dell'Unione Europea, e quindi per avere un controllo in più. Non è che non mi fidi, diciamo che nel passato c'è qualche elemento per non essere del tutto fiduciosi, e quindi chiedere anche che soprattutto i soldi utilizzati come sovvenzioni vengano poi, il loro utilizzo venga controllato. Non ci trovo nulla di male, cosa volete, i soldi e anche l'assenza di controllo, così sappiamo poi quali appetiti della politica nazionale o locale si vanno a scatenare, ma di questo parleremo. Per quello che riguarda invece l'apertura del programma, torneremo sul tema scuola. C'è di nuovo, si è riacceso lo scontro in questo caso con i sindacati, che dicono a 45 giorni la situazione è disastrosa. L'ho detto Francesco Sinopoli, segretario generale del FLC-CGL, la colpa dei ritardi con cui siamo partiti che continuiamo ad accumulare. Oggi i dirigenti scolastici sono alla caccia disperata di spazi, ma con 7 docenti in più per ogni istituto non ci sono le condizioni per ripartire. La ministra Azzolina invece ha risposto, ha detto anche non si può dire ai sindacati, non si può dire no a tutto. Faremo test serologici a dipendenti e a campione anche molecolare per gli alunni, questo l'ha detto il ministro Speranza. Poi ha detto la ministra Azzolina, sfido Salvini in TV, la scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre, vengo attaccata perché donna, giovane e ministro. Per carità, adesso non metto in discussione che qualcuno possa in maniera impropria chiaramente attaccare la ministra Azzolina per questo motivo. Faccio notare che l'attacco del sottoscritto e la richiesta di dimissioni era del tutto fuori da ogni logica di gender, quindi sesso, età e ministro. Non è su questo che uno chiede o no le dimissioni di un ministro, o diciamo reputa insufficiente l'attività di un ministro. Non buttiamola, almeno in questo caso, sempre su temi di genere o altri, o di età anagrafica. Non è quello che onestamente noi guardiamo. Guardiamo alla capacità di dare risposte al silenzio che è andato avanti per mesi del ministro Azzolina, che oggi in parte lo riconosce, dice: ho sbagliato a non andare in televisione prima. Ecco, vediamo adesso. Ma soprattutto si chiarisca anche con i sindacati. Di questo parleremo poi. Per quello che riguarda invece il risico bancario, come si chiamava una volta, allora l'antitrust ha concesso ieri via libera all'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa San Paolo a Subibanca, condizionato alla cessione di 500 o un po' di più di oltre 500 sportelli da parte di Intesa San Paolo, e sappiamo che lì l'accordo è di girare questi sportelli. Però ci sarà l'occasione per parlarne, perché oggi su questo c'è stata anche una dichiarazione del presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro, che ha detto: bene la Gcom, la concorrenza non manca. E faremo anche il punto su come sta andando questa offerta fondamentale nel panorama bancario italiano. Visto che parliamo di banche, forse ha anche un senso adesso ricordare l'andamento dei mercati finanziari: più 0,30 Milano, meno 0,40 Parigi, più 0,50 Francoforte, Londra più 0,60, Estima Electronics più 2,20, Enel più 1,90, Interpump più 1,80 come Snam, l'1,60 Ubi di rialzo e l'1,60 anche Italgas, l'1,5 Recordati e Terna. Fronte opposto, Moncler meno 2,50, CNH meno 1,5, Xor meno 1,5, Tenaris meno 1,30, Campari meno 1,20, Generali meno 1%. Come sentite, poco mossi oggi sia gli indici che la borsa, che i titoli di borsa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, intanto andiamo con le notizie, come sempre, di carattere internazionale. Non moltissime oggi. Sostanzialmente gli Stati Uniti stanno valutando il divieto di inserire, o meglio, stanno considerando di inserire TikTok sulla lista nera, che di fatto vieterebbe agli americani di usare un'app che è tra le più popolari, soprattutto per i giovanissimi. BlackRock invece ha diffuso i dati sul trimestre, salgono gli utili e i ricavi, un trimestre sopra le attese. Ricavi più 4% e utile in aumento del 21% a 1,2 miliardi di dollari. L'Italia, mentre lo spread è stabile a 164 punti rispetto al Bund tedesco, per quello che riguarda il DL semplificazioni, oggi è stato pubblicato in Gazzetta e quindi entrano in vigore le misure per semplificare, per esempio sulla green economy, la banda ultralarga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti. L'obiettivo dovrebbe essere avviare un importante processo di sburocratizzazione del paese. Faccio notare che appunto sono contenute varie norme nel DL semplificazioni. Viene semplificato per esempio il decreto prevede l'aumento dell'importo della nuova Sabatini. Sostanzialmente la Sabatini è la legge che prevede contributi alle imprese per il rimborso dei prestiti destinati all'acquisto di beni strumentali, viene erogato in un'unica soluzione invece che nelle sei soluzioni previste precedentemente. Semplificato per le imprese del sud, con la possibilità di utilizzo di fondi europei. Velocizzati i lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche, la banda ultralarga. E all'interno di quello poi bisognerà vedere i decreti attuativi, perché ricorderete che all'interno del DL semplificazioni vi era stato poi la parte Italia veloce con i 30 commissari, le 130 opere definite prioritarie, quant'altro. Ripeto, poi adesso è in Gazzetta, però poi bisognerà vedere appunto tutti i decreti attuativi. Mentre sembra che non vi siano molte possibilità di prorogare i versamenti fiscali, di cui abbiamo parlato anche ieri programmati per il 20 luglio. C'è una risposta data dal sottosegretario al Tesoro Alessio Villarosa durante il question time in Commissione Finanze alla Camera. Ha detto: il governo ha rinviato le scadenze ordinarie del 30 giugno e del 30 luglio, rispettivamente al 20 luglio e al 20 agosto, con maggiorazione dello 0,4%. Non è prevista al momento una proroga sui versamenti fiscali programmati appunto al 20 luglio. Il ministro Gualtieri ha detto che invece nella riforma del fisco cui il governo sta lavorando non vi sarà la reintroduzione dell'IMU sulla prima casa e nessun meccanismo che porti a un aumento delle addizionali. È stata ridotta l'IRPEF sul lavoro e contiamo anche di riconvocare il tavolo della riforma fiscale, ha detto sempre Gualtieri, andando avanti con riduzione dell'IRPEF sul lavoro e sostegno alla genitorialità attraverso l'assegno unico come due primi corposi interventi effettuati. E poi le mancate entrate locali saranno coperte, tant'è che poi Gualtieri ha firmato, perché stanno incassando meno anche i comuni e le regioni, Gualtieri poi ha firmato il decreto sulla ripartizione di 3 miliardi e mezzo di euro stanziati con il DL rilancio per i comuni. Questo è il governo che nella legge di bilancio ha aumentato le risorse per gli enti locali, ha aumentato in modo molto significativo le risorse per gli investimenti, e vorrei dire che nel prossimo decreto, oltre al conferimento delle risorse necessarie a compensare le mancate entrate, proprio ieri abbiamo firmato il decreto sulla ripartizione dei 3 miliardi e mezzo stanziati col decreto rilancio, a cui prima tranche del 30% è stata erogata con grande tempestività, e ora, grazie alla ripartizione della restante parte, tutti i 3 miliardi e mezzo entro la settimana prossima saranno erogati ai comuni proprio per compensare le mancate entrate. E poi il ministro Gualtieri è intervenuto ancora sulla vicenda Autostrade per l'Italia, ha detto: è riduttivo parlare di statalizzazione, abbiamo fatto discussioni non fra ministri ma sulle tariffe. E poi il ministro Di Micheli ha detto: i Benetton hanno deciso liberamente di ridurre la loro quota in Autostrade per l'Italia. Gualtieri, dicevo, ha detto: riduttivo parlare di statalizzazione, è un'impegnativa operazione di politica industriale. È riduttivo e non è semplicistico definire la statalizzazione delle autostrade. È una impegnativa operazione di politica industriale in cui Cassa Depositi e Prestiti, la Banca di Sviluppo Nazionale, peraltro è pubblica e aperta al capitale privato delle fondazioni bancarie, sarà la guida di una cordata di investitori, anche che coinvolgerà anche investitori istituzionali, fondi pensione, risparmio di lungo termine dei cittadini italiani, per rilanciare gli investimenti sulla rete autostradale. E tra l'altro questa operazione poi porterà a una quotazione, oltre a un aumento di capitale, poi a una quotazione di ASPI, quindi proprio all'apertura del suo capitale. Una rete autostradale, oltre ad essere un monopolio naturale, richiede investitori pazienti e di lungo termine. Dunque, per quello che riguarda ancora Autostrade per l'Italia, non voglio riprendere quanto abbiamo detto nei giorni scorsi, insomma, la vicenda è ampiamente nota, ripeto, c'era un contratto 2007, poi 2008, una concessione di strafavore per ASPI, ma una volta che tu fai un contratto del genere il rischio di una controversia legale era altissimo, stimata in 23 miliardi da quel contratto lì, che garantiva anche in caso di inadempienza alla società che aveva in gestione, quindi ASPI, garantiva gli utili per gli anni in cui avresti revocato la concessione. Quindi, visto che scade nel 2033, la stima era di 23 miliardi per ASPI, non per i Benetton, quindi Sintonia, né per Atlantia, di cui Sintonia al 30%. Ora attenzione, perché quello era un costo anche ridotto a 7 miliardi nel mille proroghe, ma tutto da verificare se avrebbe passato poi il vaglio della magistratura. Detto questo, molti mi chiedono: ma quali sono stati i dati di ASPI? Allora, niente dividendi nel 2019, ma nel 2018 Aspia ha avuto utili per Autostrade per l'Italia, ha chiuso con un utile di 608 milioni di euro e di cui ne ha distribuiti più della metà, quindi 311 milioni come dividendi. E siccome Atlantia ha l'88% di Autostrade per l'Italia, Atlantia ha ricevuto nel 2018 274 milioni, a questo punto il 30% dei quali sono andati a Sintonia de Benetton, che hanno il 30% di Atlantia. E immagino che la nuova Autostrade per l'Italia dovrà, da un lato, sì, è vero che il governo punta a non dare dividendi i primi due anni e reinvestire tutti gli utili, ma a un certo momento dovrai anche distribuire dividendi, perché cioè, ci sono degli azionisti dentro e non potrai andare in perdita, perché poi ci sono i soldi degli italiani dentro, con Cassa Depositi e Prestiti, Risparmio Postale degli italiani. Si tratterà di capire, appunto, di trovare un diverso equilibrio tra gli utili fatti e i dividendi distribuiti, cioè tra quello che tu hai come utile, quanta parte dell'utile reinvesti e quanta parte invece distribuisci agli azionisti sotto forma di dividendo. Ancora, per quello che riguarda gli aiuti a fondo perduto, che ripeto stanno funzionando, sono erogati dall'Agenzia delle Entrate, tutti, moltissimi ascoltatori ci segnalano che arrivano nell'arco di 7-10 giorni. Però giustamente, visto che arrivano dalle agenzie delle entrate, sono scattati i controlli anche per bloccare le richieste illecite di fondo perduto. Sono stati erogati 4 miliardi e 200 milioni, ma lo segnala l'Agenzia delle Entrate, l'attività di verifica ha consentito di individuare e bloccare soggetti che tentavano di ottenere i fondi attraverso scatole vuote o soggetti già implicati in frodi fiscali. Infatti sono scattate le denunce alle autorità giudiziarie. Poi vi sarà un protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. È più che giusto, perché lo Stato prevede nei contributi a fondo perduto di dare il 20% fino a 400.000 euro di perdita. Le soglie sono 20% per le aziende che nel 2019 hanno avuto un fatturato inferiore a 400.000 euro. 15% per imprese da 400.000 euro a 1 milione, 10% per imprese da 1 milione a 5 milioni. E che cosa prevede? Appunto che per il mese di aprile, se tu hai avuto una differenza del 30%, superiore al 30% di perdita, lo Stato ti dà in queste tre soglie appunto o il 20, o il 15, o il 10%, che però è un 20% netto. L'esempio classico è se tu hai avuto un fatturato di 350.000 euro nel 2019, nel mese di aprile avevi incassato l'anno scorso 32.000 euro, nel 2020 scendi a 5.000, hai una differenza di 27.000, lo Stato ti dà il 20% di questa differenza, di quello che hai perso. E quindi, perché in questo caso hai un fatturato inferiore a 400.000 euro, in questo caso l'impresa otterrà 5.400 euro a fondo perduto, che però, ripeto, ripianano in parte i 27.000 euro dell'esempio persi, però sono 5.400 euro che tu per averli netti avresti dovuto fatturare almeno il doppio. Quindi diciamo che l'iniziativa vale, dal punto di vista lordo, calcolando una spanne, diciamo almeno 11.000 euro. Le richieste a fondo di garanzia vanno a 54 miliardi, 854 mila domande, di cui 740 mila per la quota fino a 30 mila euro garantiti dallo Stato, pari a 14,6 miliardi. Le banche però oggi dicono, attraverso l'ABI, non possiamo e non debbono tentare di costringere i clienti a presentare domande se i clienti non sono interessati a farlo, ma questo mi sembra abbastanza lapalissiano. Invece abbiamo qualche dato sulla produzione industriale, ma ne abbiamo già parlato. Il fatturato ha fatto meno 25% su un anno prima, a maggio, ma più 41% su aprile. Gli ordinativi hanno fatto più 42% maggio su aprile, ma meno 34% se confrontati con gli ordinativi di maggio. Però l'ISTAT dice che è stato quasi recuperato il calo di aprile, faccio presente che però il tendenziale su maggio è ancora a un quarto, un quinto. E poi su questo però sentiamo un commento ai dati dell'Istat da parte del direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat, Roberto Monducci, al microfono della nostra Anna Marino. I dati relativi al fatturato industriale di maggio confermano quanto già registrato dalla produzione industriale, cioè un rimbalzo molto forte dei livelli di attività economica dell'industria. In particolare a maggio abbiamo una crescita del 41,9% del fatturato rispetto ad aprile, quindi segnale molto consistente. È evidente tuttavia che quello che è successo nei due mesi precedenti incide molto sul livello di fatturato, che è ancora molto più basso rispetto a quello dell'anno precedente. Ed è anche il primo mese della fase 2, quindi vediamo comunque una prospettiva? Sì, direi di sì, nel senso che tra l'altro i dati di oggi riguardano anche gli ordinativi, che hanno anche un valore informativo sulle prospettive a breve. Abbiamo a maggio un aumento del livello degli ordinativi del 42%, sia sul mercato estero sia su quello interno. Quindi abbiamo, diciamo, da un lato una crescita bilanciata, abbastanza bilanciata del fatturato sui due mercati, dall'altro un'indicazione che deriva dagli ordinativi che segnala il proseguimento di una fase sicuramente espansiva, che in parte è fisiologica, perché è evidente che venivamo da due mesi di chiusura che ha riguardato, ricordo a tutti, almeno la metà delle imprese industriali, quindi insomma un lockdown piuttosto severo. E tuttavia l'ampiezza del rimbalzo è stata superiore alle aspettative, come quella per la produzione industriale. Adesso si attendono i dati della fase 3? Sì, i dati di giugno saranno decisivi, perché a questo punto è chiaro che il rimbalzo era assolutamente fisiologico. Se l'industria riuscirà a mantenere questi livelli di attività, addirittura aumentandoli ulteriormente, probabilmente lo scenario a breve termine sarà molto più positivo. È evidente che poi ci sta tutto il settore dei servizi, che ancora su cui abbiamo pochi dati, che rappresenta gran parte del PIL, quindi nel settore dei servizi che si giocherà, diciamo, una buona fetta della ripresa dei prossimi mesi. E quali settori invece sono subito ripartiti tra quelli, insomma, che hanno determinato questo dato? Tutte a due cifre, o quasi tutte a due cifre, ovviamente. Una forte ripresa del settore dei beni durevoli, ma soprattutto dei beni strumentali, più 61,1% per quanto riguarda i beni di investimento, un dato molto forte legato anche al nostro posizionamento internazionale. Allora, dico a chi mi sta scrivendo, guardate, lo diceva Monducci nell'intervista, i dati di giugno saranno fondamentali, perché adesso tu hai avuto un rimbalzo, che era un rimbalzo anche ovvio, visto che metà delle imprese, qui non stiamo parlando del commercio, dei servizi, no, erano chiuse, un rimbalzo fortissimo maggio su aprile, più 42%, però sull'anno sei ancora un meno 25%. Ora bisognerà vedere giugno, non solo su maggio, ma giugno, iniziare a guardarlo sul giugno 2019 per capire quanto distanti siamo da un livello tra virgolette normale, se vogliamo indicare nell'anno scorso, in giugno dell'anno scorso, un livello normale. E questo riguarda solo il fatturato manifatturiero, cioè delle imprese, perché sui servizi oggi per esempio ci sono vari dati sull'Osservatorio Economia e Territorio del Centro Studi Sintesi di Mestre, un balzo indietro in Lombardia, Veneto ed Emilia, addirittura in Lombardia di 20 anni, ma soprattutto anche la Confcommercio segnala un recupero difficile a giugno, perché dice che sia ancora un meno 15% sull'anno prima, ok? Quindi e adesso vedremo anche i dati più aggregati, che giugno è un mese tra virgolette senza scuse di lockdown, visto che poi col 3 di giugno si è riaperta anche la mobilità tra regioni, e quindi sarà il primo mese, diciamo, senza chiusure in senso stretto, ma in cui andrai a verificare i danni di medio termine, ammesso che vi siano, però temo di sì, su giugno del 2019. Segnalo, l'hanno già fatto i nostri GR24, l'allarme lanciato dalla DIA, della relazione semestrale della DIA inviata al Parlamento: attenzione, le mafie potrebbero avere un boom di guadagni dopo il Covid, perché possono allargare il loro ruolo di player affidabili ed efficaci, e su questo punto è forte l'allarme della direzione, della relazione semestrale della DIA inviata al Parlamento. L'ultima nota: l'ENAV, l'Autorità Nazionale per il Traffico Aereo, ha segnalato che a giugno è raddoppiato il traffico aereo, e quindi erano calati a luglio era raddoppiato il traffico aereo, erano calati dell'86% a giugno rispetto a giugno 2019, mentre a luglio è stato recuperato il 20% di traffico, comunque si è ancora sotto del 66%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo su meteo, pubblicità e poi iniziamo con la scuola e poi l'offerta di Intesa San Paolo Subi. Focus Economia. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dopo un po' di settimane di tregua, torniamo a parlare di scuola, non perché sia cambiata la data fissata ufficialmente, poi le regioni hanno la loro autonomia, ma per il 14 settembre, perché in realtà i sindacati della scuola dicono che a 45 giorni dalla ripartenza dell'attività scolastica la situazione è disastrosa, lo dice Francesco Sinopoli, segretario generale della FIL-CGL. La colpa dei ritardi con cui siamo partiti che continuiamo ad accumulare. Oggi i dirigenti scolastici sono alla caccia disperata di spazi, ma se non ci sarà un organico, non ci sarà organico aggiuntivo, tornerà la didattica a distanza. Con 7 docenti in più per ogni istituto non ci sono le condizioni per ripartire. Sappiamo che ci sono 1,5 miliardi certi, 1 miliardo probabile, ma servono ulteriori investimenti e un organico straordinario. Il ministro Azzolina risponde ai sindacati: non si può dire no a tutto. E poi dice: vengo attaccata perché donna, giovane e ministro. Io mi sono permesso di dire che non è il caso nostro. Noi attacchiamo, critichiamo uno non in base al sesso, all'età, ma in base alle competenze dimostrate e al fatto di sembrarci o no appropriata per quel ruolo. Allora, torniamo quindi ad avere ospite Eugenio Bruno del Sole 24 Ore. Eugenio, buonasera. Buonasera. Come mai questo così riaccendersi di fuoco da parte dei sindacati e che cosa vogliono ottenere? Perché sappiamo, adesso lo dico molto tranquillamente, che i sindacati sono stati assolutamente, diciamo, restii e hanno fatto enormi resistenze, non solo quelli degli insegnanti, di tutto il corpo, diciamo, che il mondo che lavora nella scuola, a riaprire la scuola, provare a tentare di riaprire la scuola almeno in alcune regioni prima, e quindi fare la didattica in presenza. Qual è il loro problema adesso? Diciamo che è un problema che viene da lontano, viene dai mesi scorsi, è una polemica che non si è mai spenta, che riguarda l'apertura di settembre, ma non solo. La questione, secondo me, resta la stessa. I sindacati non è andato giù che è stato rinviato il concorso che avrebbe consentito di assumere 32.000 precari, perché speravano che il concorso non si facesse proprio e che venisse sostituito da una sanatoria. Questa è storia di qualche settimana fa. Mm-hmm. Questa soluzione non è passata, si è deciso solo di rinviare il concorso e anzi di renderlo anche più complicato rispetto a quello che è più serio, ma anche più complicato, e quindi in qualche modo continuano questi piccoli fuochi quotidiani. Quindi tu dici è una posizione in qualche modo, non dico preconcetta, ma che viene da non è che hanno scoperto qualcosa di adesso nell'ultima settimana di particolarmente grave sulla scuola, anche perché ho visto invece la dichiarazione del commissario straordinario Alcuri, che ha preso la delega anche per, diciamo, le attrezzature e quindi che devono servire la scuola per la ripartenza. Non ho visto altre dichiarazioni allarmate, che non vuol dire che la situazione vada bene, ma volevo solo capire quanto ci fosse di tipico atteggiamento sindacale e quanto invece di contenuti concreti, perché a me il fatto che i sindacati volessero la sanatoria invece del concorso mi interessa fino a un certo punto, e non so neanche se ritenerlo giusto, anzi così da come la descrivi lo ritengo sbagliato, un concorso si fa. Però non è questo motivo per cui entrano o non entrano in classe i ragazzi il 14 settembre. Eugenio. Allora, le difficoltà ci sono e alcune sono oggettive. C'è un dato che non è ufficiale ma che più o meno serpeggia. I presidi stimano in 20.000 le aule che non ci sono da qui a settembre. Quindi c'è un problema oggettivo di spazi. Adesso una parte della soluzione è affidata al commissario Arcuri ed è affidata alla gara per l'acquisto di nuovi banchi, di banchi monoposto, che sostituiranno i vecchi e che quindi consentiranno di avere più alunni nella stessa aula. Ma non è l'unica soluzione. In alcune scuole è già stato deliberato come si riaprirà a settembre. Nelle superiori è più facile. Scuole che ho sentito direttamente hanno deciso di utilizzare la didattica a distanza per alcuni giorni a settimana. Quindi, diciamo, questa opzione che è diventata l'ultima ed era uscita dalla porta, almeno alle superiori sta rientrando dalla finestra ed è una soluzione che aiuta i presidi a organizzare. Però per medie ed elementari questa soluzione non sarà possibile. Quindi torniamo al punto di partenza. Sembra un eterno gioco dell'oca. Il problema è che la scadenza si avvicina. Sì, io vorrei a questo punto, lasciamo stare la diatriba sindacale, io però vorrei, visto che la Zolina oggi ha detto, sfido Salvini in TV, la scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown, spiego io adesso basta, ho sbagliato a non farlo prima, ecco io vorrei che arrivassero, a differenza di quanto è successo nei mesi durante il lockdown, in cui non capivamo come si stesse muovendo il Ministero, assieme al CTS, sulle riaperture, abbiamo fatto una polemica che è durata settimane, ma non da soli. Adesso mi sembra importante che venga fatta chiarezza anche attraverso la comunicazione, cioè a che punto siamo, non sono io il ministro, ma ci dica a fine luglio, inizio agosto, a che punto è la situazione, confrontandosi chiaramente con i prestiti e con i provveditori agli studi. Alcune regioni sono messe meglio, altre peggio, dove bisogna intervenire, cioè non arriviamo per favore ministro a fine agosto con una fotografia della situazione quando mancano due settimane, meglio iniziare a saperlo di settimana in settimana o ciclicamente per non così scoprire all'improvviso quanto tu ci stai anticipando, Eugenio? Diciamo purtroppo dobbiamo verificare giorno per giorno la situazione, perché sono così tanti tavoli aperti, così tante le sedi della trattativa. C'è un aspetto però che secondo me è fondamentale comunque e su cui torno all'inizio, no? È la presa di posizione dei sindacati. I sindacati possono mettere sul tavolo la firma o meno al protocollo sulla sicurezza, che è uno che diciamo che è un atto comunque che manca e che serve per riaprirle le scuole, come è stato fatto per le aziende quando è stato fatto un protocollo di sicurezza per la riapertura. Certo. Così è stato fatto, questo serve per le scuole. L'ultima riunione c'è stata ieri, cioè ieri a fine riunione i toni non erano questi, ci si è lamentati, non solo i sindacati, anche le altre parti al tavolo, del fatto che manca una bozza di questo protocollo, cioè non c'è ancora nulla di scritto. Dopodiché, per sedersi tutti allo stesso tavolo, il modo comunque bisognerà trovarlo, nell'interesse delle famiglie e dei ragazzi. Sì, appunto, e quindi, ripeto, ministro Azzolina, invece che dire che viene attaccata perché donna, giovane ministro, non iniziamo con queste scuse, come dire, io vengo attaccata dagli ascoltatori perché sono Bruno e non aggiungo altro. No, vengo attaccato perché perché non sono d'accordo con quello che dico, per come lo dico. Per carità, ma non ho mai messo in mezzo il mio sesso, la mia età e quant'altro per dire che vengo attaccato o no, se no non ne usciamo più. Iniziamo a dare risposte e a parlare in maniera concreta, non astratta. Iniziamo a eliminare classi pollaio. Sì, va bene, dai, come, dove, quando e come dice Giulio Bruno, quando arriverà anche la bozza del protocollo, perché quella è fondamentale, se è firmata con i sindacati ci arrivo anch'io, come è avvenuto per il mondo delle imprese. Non dico che tuteli, ma insomma dà una grossa così, copertura anche alla ripresa dell'attività, perché se i sindacati non sono d'accordo poi iniziamo ad avere il Vietnam su questo. Eugenio Bruno, quando è che ci risentiamo secondo te? Ma per avere un quadro definitivo temo che dovremo aspettare la seconda metà di agosto. Per mettere qualche punto fermo spero già la prossima settimana, almeno sulla sicurezza. Allora io spero che ci risentiremo entro luglio, mettiamola così, che vuol dire che già c'è una bozza e speriamo magari condivisa rapidamente anche dai sindacati. Grazie anche a Eugenio Bruno, andiamo sul traffico. Focus Economia. 17:51 minuti. Allora, la vicenda dell'OPS, Intesa San Paolo su UbiBanca. L'antitrust ha concesso via libera condizionandola alla cessione di oltre 500 sportelli bancari da parte della nuova creatura, se dovesse andare in porto l'offerta pubblica di scambio. E ricordiamo che l'offerta è stata annunciata il 17 febbraio e prevede, ed è iniziata, 17 nuove azioni di Intesa ogni 10 di UbiBanca, con un premio del 28% sul prezzo di borsa del 16 febbraio. Ubi l'ha respinta definendola non concordata e dicendo che non rispecchierebbe il valore della banca per almeno 1,1 miliardi. I rapporti di forza sono molto diversi. Intesa San Paolo ha 32 miliardi quasi di capitalizzazione, il più grande gruppo bancario in Italia. Ubi ha 3,7 miliardi di capitalizzazione, Intesa 12 milioni di clienti, Ubi 4 milioni di clienti. E su questo è intervenuto al microfono della nostra Flavia Carletti, la collega di Radio Cor, Flavia Carletti, il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Grosspietro, dicendo sono soddisfatto della Gcom e questo non va a ridurre la concorrenza. Trovo molto allineato con quanto l'autorità ha detto, anche perché alcune delle affermazioni che ha fatto l'autorità le avevo portate io nel mio intervento quando sono stato udito dall'autorità, e cioè in Italia abbiamo degli operatori forti, oltre a Intesa San Paolo c'è Unicredit, c'è la prima banca della zona euro, BNP Paribas, c'è Crédit Agricole che è il 25% di valore in più rispetto a Unicredit come capitalizzazione di borsa. Quindi i concorrenti forti ce ne sono, c'è Banco Posta che ha la più grande rete di sportelli e la garanzia statale sui depositi, quindi la concorrenza non manca. Quindi non è vero che la nostra offerta era diretta a eliminare un concorrente. Allora, nel frattempo la pensa in maniera completamente diversa il numero uno di UbiBanca, Victor Massià, che ha detto: da un lato la Gcom condivide le nostre preoccupazioni, l'autorità garante della concorrenza del mercato, e poi dice: noi valiamo 8,5 miliardi come UbiBanca, ce ne danno, ci valutano 3,5 miliardi. A Luca Maximiliano Cellino del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora Maximiliano, i 500 sportelli in realtà era già prevista che venissero ceduti, no? Adesso tutti l'hanno lanciata come cosa nuova, ma era ampiamente nota. Sì, attenzione, era prevista che venissero ceduti, però come fa notare UbiBanca, nel caso in cui non si raggiungesse il 66% o il 66,6% dell'adesione, quindi non si potesse convocare un'assemblea straordinaria, andare avanti con il controllo, con Intesa San Paolo che prende il controllo di Ubi e magari delicia la società, la banca, e l'antitrust sottolinea che questi 500 sì, sportelli vanno venduti, ma se non si riesce a vendere, non avendo il 76%, gli sportelli marchiati Ubi, insomma, con l'insegna Ubi, Intesa dovrebbe vendere degli altri sportelli, magari proprio sotto la, altri sportelli propri, e questo potrebbe andare a danno delle sinergie. Insomma, questo è quello che sostiene Ubi in questa schermaglia continua che anche oggi vediamo. Schermaglia continua che qualcosa comunque in borsa muove. Pochissimo si sta muovendo, insomma, oggi. Ecco, di questo vorrei parlare dopo il GR24, perché vorrei capire invece come sta reagendo la borsa. Qui c'è un'offerta pubblica di scambio, a quanto è arrivata l'offerta pubblica di scambio e le indicazioni che arrivano dal mercato, al di là delle schermaglie tra Victor Massià, chiaramente, e i vertici di Intesa. Dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Grazie a Eolo, internet ultraveloce raggiunge anche le imprese dei più piccoli comuni italiani. Scopri Eolo Impresa Start. Bastano 5 giorni per attivare la connessione e navighi fino a 100 mega senza limiti. In più hai un servizio di assistenza immediata sempre attivo. Il tutto con un prezzo in promozione da 50 euro al mese anziché 85. Per avere Eolo Impresa Start, chiama il numero verde 800 939 939 o vai su azienda.eolo.it. Eolo. Internet dove gli altri non arrivano. Cosa vuol dire per te rinascimento? Scoprirsi padroni del tempo e dello spazio. Sentire ovunque la grandezza del possibile. Immergersi nella quiete assoluta. E raccogliere giornate rigogliose. Vivi un'estate toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com. Il nome della tua attività è importante perché la rende unica. Scegli il nome giusto anche per il tuo sito. Registra il dominio. Usa l'email per comunicare online in modo sicuro e professionale. Vai su Aruba.it. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. A luglio Alfa Romeo Giulietta arriva prima degli incentivi, solo sulla pronta consegna. Con il finanziamento FCA Bank hai fino a 10.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione. Anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Alfa Romeo Giulietta. Facile raggiungerla, difficile superarla. Iniziativa valida fino al 31 luglio, soggetta ad approvazione FCA Bank. TAN 675 TAI GOT 46. Info su alfaromeo.it. È partita l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo sulle azioni UbiBanca. Fino al 28 luglio gli azionisti UbiBanca potranno ottenere 17 azioni Intesa San Paolo ogni 10 azioni UbiBanca, con un premio del 27,6% rispetto al valore di UbiBanca alla chiusura di borsa il giorno precedente il lancio dell'offerta. Il futuro oggi più che mai è di chi sa costruirlo insieme. Ecco perché crediamo in un'unione fondata su solidità patrimoniale, redditività e generazione di valore per azionisti, clienti, famiglie, imprese e dipendenti. Per maggiori informazioni visita il sito gruppo.intesasanpaolo.com o chiama il numero verde 800 595 471. Prima dell'adesione leggere attentamente il documento di offerta disponibile sul sito internet gruppo.intesasanpaolo.com o presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Focus Economia. Otto e nove minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, Maximilian Cellino, al di là delle posizioni chiaramente distanti, oltre che distinte, tra i vertici di UbiBanca e i vertici di Intesa San Paolo, e al di là di quanto tu ricordavi che ha deciso la GCOM e che diciamo scontato, era già previsto se Intesa San Paolo raggiunge oltre il 70% di azioni, quindi può convocare l'assemblea straordinaria, e invece complicherebbe le cose se le adesioni fossero sotto, perché in quel caso potrebbero essere coinvolti gli sportelli di Intesa, non quelli di UBI. Come sta andando l'offerta sul mercato, sia come andamento dei titoli che come diciamo raccolta? Allora, la raccolta non c'è ancora il dato puntuale di oggi, ieri eravamo il 3,5% all'incirca, forse qualcosa in meno, ma non è un dato che noi dobbiamo guardare quello lì, perché ovviamente i giochi si faranno probabilmente tutti nelle ultime giornate, mancano ancora 10 giorni alla chiusura, 7 sedute di borsa. Si ha l'idea però che si stia entrando davvero nel vivo, un po' con le prese di posizione dei vari soci che avete ricordato in precedenza, e un po' anche perché in borsa qualcosa si sta vedendo. Oggi tu accennavi a cosa è successo sui titoli: UBI ha guadagnato l'1,2%, si è portato a 3,23 euro, mentre Intesa ha ceduto lo 0,41%, quindi è scesa leggermente a 1,84 euro. Questo per dire, non sono grandi movimenti eclatanti, però intanto il rapporto si è portato a 1,78 dall'1,7 che è, cioè 17 azioni su 10. Cioè il mercato sta cominciando a pensare, ma se ci fosse davvero un rilancio, che per ora Intesa ha escluso, che però per esempio i soci di Brescia, i soci bresciani hanno chiaramente richiesto, insomma noi aderiamo, però siamo certi che Intesa ha chiaro che se vuole raggiungere i 2/3 che tu indicavi in precedenza debba rilanciare. In questo momento se facciamo i calcoli siamo un 5% in più, è poca roba, però intanto qualcosa si sta muovendo, e non c'era nei giorni scorsi, piano piano ci si sta muovendo, e quindi La borsa sta prendendo un po' le misure, del resto appunto i soci si stanno schierando, il sì condizionato, il no come quelli dei soci cuneesi, soci piemontesi, come dicevi è molto rilevante arrivare al 66%, sì, ai due terzi per avere, per prendere poi le vere decisioni ed evitare anche quell'impasse che dicevi, che commentavi in precedenza e che faceva notare Ubi sui 500 sportelli, sì, e anche per l'intesa, e anche per arrivare appunto alla convocazione della straordinaria. Devo dire che il CDA oggi della Fondazione Banca del Monte di Lombardia avrebbe assunto un orientamento favorevole rispetto all'offerta pubblica di scambio lanciata dall'Intesa San Paolo su Bibanca, così recitano fonti di agenzia, da usare il condizionale, e i soci bresciani di UBI che detengono l'8% del capitale della banca sarebbero orientati ad aderire all'OPS, ma si aspettano un rilancio, così il presidente del sindacato azionisti Franco Polotti. Torneremo a parlarne, grazie anche a Maximilian Cellino, e adesso iniziamo, perché poi diciamo, il sunto lo faremo a questo punto lunedì, con il Consiglio europeo in corso a Bruxelles, il primo con i leader presenti di persona dopo mesi di teleconferenze per l'emergenza coronavirus, distanti le posizioni tra i frugali o fregali, come li ho chiamati io, capeggiati dall'Olanda, e gli altri paesi, però c'è la sensazione che una decisione arriverà e andrà formalizzata. Dunque, per come l'ho capita io, sono quattro i punti, almeno quattro i punti controversi, i punti da contendere. Uno, le dimensioni finanziarie. Quindi la proposta che è arrivata alla von der Leyen era di 750 miliardi divisi con 500 miliardi di sussidi, quindi non di prestiti, e 250 miliardi di prestiti da restituire. Secondo punto è appunto la divisione tra questi, cioè quanta parte a fondo perduto, sussidi, quanta parte prestiti. E i frugali vorrebbero, non dico un rapporto opposto, ma quasi, non i due terzi a fondo perduto e un terzo a prestiti. Terzo punto da discutere è chi blocca e quindi va a controllare i piani nazionali di investimento. Io sono assolutamente favorevole che vi sia un controllo, perché non voglio che questi soldi poi diventino appetito di scelte di politica nazionale o politica locale, ma devono essere utilizzati bene. Il punto è che i paesi frugali vorrebbero l'assegnazione del controllo al Consiglio europeo, quindi agli Stati, mentre l'Italia vorrebbe che spettasse alla Commissione. L'Olanda vorrebbe addirittura arrivare all'unanimità dei 27 per l'approvazione dei piani di spesa, dei piani di investimento. E poi come ripartire le risorse nei vari paesi? Per il 70%, tenendo conto della disoccupazione negli ultimi 4 anni pre-Covid, il 30%. Che verrebbe assegnato solo nel 2023 in base al calo del PIL 2020-2021. Adriana Cerretelli, la mitica, buonasera. Buonasera, buonasera. Detta anche barometro Cerretelli, grazie anche a Daniele Gross, direttore del Center European Policy Studies di Bruxelles. Buonasera Gross. Buonasera. Allora Adriana, subito il barometro e poi dopo il traffico invece i punti ancora da chiarire. Dove butta il tuo barometro? Fermo restando che nessuno si illude che oggi e tra oggi e domani si deciderà tutto. Prego. Dunque, il mio barometro nonostante tutto punta all'accordo. Non so naturalmente se si riuscirà a fare questo weekend. Io spererei di sì, però bisognerà vedere. Se no penso comunque entro la fine del mese, se non altro perché anche i mercati sono molto attenti a quello che sta succedendo in Europa, e un fallimento, sia pure rimandato di una settimana, secondo me non sarebbe un bel segnale. Dalle dichiarazioni, a parte Rutte per ovvi motivi, perché ha le elezioni l'anno prossimo in marzo, e poi perché giustamente dice se noi diamo dei sussidi vogliamo controllare che siano utilizzati davvero per fare le riforme. Quindi cioè, è un atteggiamento che magari può risultare antipatico, ma è comunque più che razionale e giustificato. Quindi a parte Rutte e a parte, secondo me, l'ungherese Orban, che non vuol neanche parlare appunto di controllo sullo Stato di diritto, eccetera, io penso che tutte le altre cose siano problemi seri, ma che siano problemi in qualche modo risolvibili nel diciamo mercanteggiamento finale, anche perché la stessa Olanda è ricattabile sulla questione del rebate, del famoso sconto sui contributi al bilancio europeo, ha tutta la partita fiscale dietro che certamente non c'entra con questo negoziato, ma che può pesare dal punto di vista del suo rigore, no? Rigore sui conti, sulle riforme degli altri, benissimo, però che faccia essa pure delle riforme, soprattutto su un fisco che vampireggia le entrate di bilancio degli altri paesi. Quindi il tema, diciamo, dei paradisi fiscali. Anche, sì. E poi c'è la volontà della Merkel, che secondo me, se riesce a trovare un accordo, comincia la presidenza con un grandissimo successo politico che può far pesare l'Europa sulla scena e soprattutto calmare i mercati, nel senso che i mercati per ora non reagiscono nonostante dei dati spaventosi che riguardano l'Italia ma anche altri paesi. Se certo si cominciasse a inclinare l'idea di questa Europa, certo, che è unita, che quindi vede l'interesse nazionale che coincide con quello europeo, perché solo uniti si vince, eccetera eccetera, io penso che i mercati comincerebbero a provare ad attaccare questo e quello, naturalmente i più deboli, cioè noi. Quindi penso che sia nell'interesse degli stessi olandesi non destabilizzare troppo, e neanche dei frugali. Infatti, per esempio, la Danimarca dice: voglio togliere ancora 24 miliardi all'ammontare totale di bilancio, che sono noccioline in una trattativa come questa, no? Sì. Però è chiaro che ognuno si posiziona, ecco, cioè si posiziona e cerca di portare a casa il massimo dei vantaggi, come è normale. Allora, vorrei fare, dopo il traffico, una verifica del barometro Ceretelli con Daniel Grossa, a partire da quello che Adriana ha appena ricordato, cioè chi deve controllare e ha il potere di bocciare i piani di investimento, come, se ho ben capito, snodo più critico dei vari punti che ho elencato, e quindi Consiglio di Stato, Consiglio europeo con gli singoli stati, oppure invece la Commissione europea. Dopo il traffico, la risposta. Cosa cerchi per il tuo business? Le migliori innovazioni, le tecnologie più avanzate e poi connettività, precisione, sicurezza. Perché non pretendere tutto ciò anche dalla tua auto? Con la nuova BMW Serie 3 Touring hai una tecnologia totalmente al servizio del tuo piacere di guidare, per far arrivare il tuo business ancora più lontano. Scopri le nostre soluzioni flessibili su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW. Focus Economia. minuti. Dunque, Daniel Grossa, d'accordo con Adriana Ceretelli, l'ostacolo più grosso è quello di chi deve controllare i progetti, i piani nazionali di investimento tra il Consiglio europeo, quindi i singoli stati, e addirittura l'Olanda, che vuole l'unanimità 27, oppure la Commissione europea? Infatti questo sembra essere l'ostacolo maggiore, è un ostacolo creato dall'Olanda. Secondo me si è cacciato in un angolo, perché a guardare da vicino che cosa potrebbe dire il Consiglio europeo sui piani di riforma di 27 stati. Nessuno avrà voglia di andare nei dettagli dei piani che poi presentano tutti gli stati e per valutarli. Per questo abbiamo la Commissione europea. Sì, che già fa questo lavoro da quando esiste l'area euro, nel senso che è la commissione che valuta se il tuo piano di rientro sul deficit è giusto o no, che eventualmente stabilisce sanzioni, no? Grosso, per cui è il suo lavoro anche. Appunto, e magari ci potrebbe essere qualche, come dire, controllo politico largo alla fine, come ha proposto anche la commissione, che il Consiglio dei Ministri dell'Economia e Finanze potrebbe obiettare, ma solamente se trova una maggioranza qualificata per andare contro i giudizi della Commissione. Penso che questo sarebbe veramente l'approccio, come dire, più normale, e l'Olanda si è impontito, penso, per ragioni domestiche, cioè, di politica domestica. Il fatto che Rutte l'anno prossimo ha le elezioni, questo è poi, no? Sì, e poi secondo me è un calcolo magari anche sbagliato, perché in Germania si è visto che la Merkel, quando ha fatto questa svolta storica, direi, qualche mese fa, non ha perso popolarità, perché ha potuto spiegare al pubblico tedesco che qui si trattava della sopravvivenza dell'Unione Europea, che qualcosa andava fatto e bisogna far vedere qualche solidarietà. E penso che lì sia più un gioco di politica di partito, all'interno del partito di Rutte, dove c'è qualcuno che magari pensa di guadagnare voti, non tanto voti in totale, ma all'interno del partito, che fa sì che Rutte non vuole cedere. Ecco, Adriano Cerretelli, alla luce di quello che diceva Daniel Gross, l'Olanda si è infilata in un cul-de-sac poco comprensibile, se non per motivi, diciamo, elettorali, addirittura interni, all'interno della lotta, diciamo, dentro il partito di Rutte. Però tu ricordavi, attenzione, perché così come Angela Merkel non ha perso consenso, perché ha spiegato, forte anche dell'appoggio alla Confindustria tedesca, che ha detto: attenzione, non possiamo far crollare l'Italia e neanche la Spagna, perché no, la componentistica, per esempio, auto tedesca al 21% arriva dall'Italia, quindi viene giù l'intero mercato, oltre che di consumo anche di produzione. Beh, magari l'Olanda potrebbe chiarire che se tira troppo la corda, in discussione, come tu ricordavi, ci sono anche le politiche fiscali estremamente concorrenziali da paradiso fiscale dell'Olanda e anche i contributi, cioè che qualcosa ha da rischiare anche lei, no? Ma sicuramente, ma io credo che quella di Rutte sia una posizione tattica. Tattica. È una posizione tattica, naturalmente durissima, come sono loro come negoziatori, ma che non abbia nessuna intenzione di far saltare il vertice. Vorrei vedere Rutte che fa uno sgarbo simile alla Merkel, cioè non ce lo vedo proprio, nel senso che tirerà la corda finché può, ma non solo. Questo voto all'unanimità che lui pretende non è condiviso nemmeno dai frugali, cioè dai suoi alleati, che cercano naturalmente di ridurre le cifre di bilancio, cioè è praticamente solo. Quindi è una partita interna, come si diceva, una partita interna. Lui è anche il concorrente del ministro delle finanze Hoekstra, che vuole presentarsi, eccetera. Quindi lì è una partita, no? Chi è più duro uno o l'altro, eccetera. Ma poi alla fine, tra l'altro, Rutte è popolare, vedevo gli ultimi sondaggi. È chiaro che ha guadagnato in popolarità con un atteggiamento rigorista, però tutto sommato non va alle elezioni in una posizione di debolezza, quindi probabilmente lui vuole lanciare un messaggio al paese per dire: io certo, però controlleremo, cioè, e in fondo il presidente del Consiglio Michel gli ha già fatto una grossa concessione, perché mentre prima era sostanzialmente la Commissione che dava il via libera e poi c'erano gli stati membri che lo davano come pro forma, oggi si prevede che comunque ci sia un processo tipo quello normale dell'Ecofin, cioè che la Commissione proponga, eccetera, ma che poi a maggioranza qualificata gli stati membri dicano sì o no a livello di Ecofin. Quindi che adesso lui spinga per l'unanimità è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Tra l'altro c'è chi fa notare che questo tipo di procedure sono simili a quelle dei fondi di coesione, che non si dà, che si approvino, cioè è una cosa che non infatti, ha nel capo né cosa, è del tutto pretestuosa. Volevo chiedere un'ultima cosa a Daniel Gross, perché allora, l'Europa è sicuramente cambiata, tra virgolette, grazie all'epidemia, sicuramente la posizione tedesca, sicuramente c'è uno sforzo enorme tra Banca Centrale, BEI e adesso anche Recovery Fund. Posizione tedesca e francese, va detto, perché la Francia è stata colpita quanto l'Italia, diciamo, lasciamo stare i decimali, dal crollo del PIL e ahimè anche dai danni sanitari. Però è un po' triste vedere che un dibattito interno, lo dico anche quando avviene a casa nostra, dentro un partito diverse correnti bloccano tutto, immaginando in un paese piccolo come l'Olanda, che la lotta tra il suo ministro delle finanze e Rutte, per chi è più nazionalista, porti a uno stallo complessivo. Gross, però, lei alla fine la pensa come Adriana Cerretelli, cioè che poi alla fine un accordo si arriverà a un accordo, perché non può permettersi poi l'Olanda di far saltare il banco? Ma penso di sì, perché anche l'Olanda dovrà chiedersi allora gli altri se non danno l'accordo sul programma presentato dall'Olanda, no, lui stesso non riceverà niente. E magari un compromesso potrebbe essere un controllo più intenso sui contributi a fondo perduto, mentre ce n'è bisogno di meno sui crediti. Sui prestiti. Sì, vabbè, ma sui prestiti. Io sul controllo, se viene fatto in maniera coerente, non appunto con quella proposta assurda di 27 stati che decidono se gli altri 20, se gli altri, ogni stato decide se gli altri 26 hanno speso bene i soldi, mi sembra una follia. Però che vi siano controlli più stringenti da parte della Commissione sugli aiuti a fondo perduto mi sembra una cosa anche lecita e razionale. Nessuno vuole che questi soldi vengano dati e poi non controllati sull'Italia, ma anche in altri paesi. Staremo a vedere cosa succederà o non succederà da questo Consiglio europeo. Grazie intanto a Adriana Ceretelli e a Daniel Gross. Un ringraziamento come sempre a Maria Sole Lisciandro e a Barbara Bianchi per l'assistenza in diretta e in regia in questa puntata di venerdì 17 di un anno bisestile che si è conclusa per ora la puntata. La classifica tornerà dopo l'estate. Noi ci risentiamo invece lunedì prossimo dalle 17 in poi.